legumi capaci di complicità. Io li credevo pietanze fugaci, e invece mi piaci, facciamo a metà. Facciamo a metà. Facciamo a metà. M'hanno generato, confinato dentro un quadro di Miro. Che cosa non darei per poter dirti che io non mi stancherò. Voglio affogare in un mare di ceci legumi capaci di complicità. Io li credevo pietanze fugaci, e invece mi piaci, facciamo a metà. Facciamo a metà. Facciamo a metà. T'accompagno al nostro funerale in completo bianco. Che cosa non darei per poter dirti che non son già stanco. Oh, oh, oh, oh. Voglio affogare in un mare di ceci legumi capaci di complicità. Io li credevo pietanze fugaci, e invece mi piaci, facciamo a metà. Facciamo a metà. Facciamo a metà. Facciamo a metà.